tu es bien belle. Oh, senza di te, cosa farei, mia stella? Oh, baby, baby, oh, quanto mi dai? Oh, baby. Disabbi-moi di ogni inutile scoria, rivestimi di positiva memoria. Disabbi-moi di ogni indecenza, che senza di te non posso stare senza. Disabbi-moi di ogni arroganza, dammi un po' della tua innocenza. Fammi piantare rose sui tuoi altopiani, fammi baciare i tuoi piedi e le tue mani. Le onde del tuo oceano hanno superato gli argini, inondato il mio cuore, illuminato le mie vele, colorato le mie labbra, argentato la mia spiaggia. Hai piantato nel mio deserto tulipani e fiori di mirto. Disabbi-moi che ogni tanto ci vuole sesso per equilibrare i cicli del sole. Offriamogli un amplesso, nevica di fuori, una pioggia di fiocchi azzurri, come i tuoi occhi che sanno di mandorla. Sono la tua pantera, la tua bambola, nell'ombra della sera percorro la tua schiena. Mi sembra un'autostrada che mi porta sino alla luna. Al quieto tuo desio ci metto un po' del mio, e naufraghi navighiamo nel mare dell'oblio. Accavallati amore, come due angeli nel mare, scopriamo nuove frontiere del nostro corpo, del nostro volare. Non sarei mai stato uomo se non ti avessi incontrato. Arcobaleni suonano la nostra musica nel cielo. Disabbi-moi di ogni inutile scoria, rivestimi di positiva memoria. Disabbi-moi di ogni indecenza, che senza di te non posso stare senza. Disabbi-moi di ogni arroganza, dammi un po' della tua innocenza. Fammi piantare rose sui tuoi altopiani, fammi baciare i tuoi piedi e le tue mani. Le onde del tuo oceano hanno superato gli argini, inondato il mio cuore, illuminato le mie vele, colorato le mie labbra, argentato la mia spiaggia. Hai piantato nel mio deserto tulipani e fiori di mirto. Accavallati amore, come due angeli nel mare, scopriamo nuove frontiere del nostro corpo, del nostro volare. Non sarei mai stato uomo se non ti avessi incontrato. Arcobaleni suonano la nostra musica nel cielo.